ansiosi e ubriachi, quelli della Sardegna. Attenzione su 10, prego. Buonasera, l'operatore Gianni Do Più Ruma, avanti, con chi abbiamo l'onore di parlare. C'è qualcuno vivo anche? Sì, uno lei che ha preso il sciapparecchio, non c'è mai nessuno, poi mi vendo il tutto, va. Sono 23, c'è gente. Oggi ero indaffarato, però sto soffrendo il caldo più degli altri giorni, perché qua puoi aprire la notte quando è fresco, cioè non questi giorni. Puoi tenere chiuso di giorno, ma ha un effetto cumulativo il caldo. Praticamente adesso dentro la mia camera ci sono 28 gradi e mezzo, ieri erano 27 e spiccioli. Se ogni giorno tende a accumulare calore, mi poche parole, la casa, per quanti accorgimenti prendami. Sai come faccio io, attacco l'aria condizionata, chiudo tutte le finestre e sto al fresco. Tranquillo. Quella mi crepa sempre già. Quella mi crepa sempre. Riesce a creparmi sempre, o al collo, alla gola. Ma mi crepa, perciò non la metto proprio, a meno che non arrivi a 40 gradi all'ombra. Vedrai che ci arriveremo, ok? Io ho messa, però c'è una camera che stava stando dentro, sono tutta spente. C'è prima che si pida qualche malato, per quelli che c'è malato. Lui lasciamo perdere. Sono sempre lontano con quella perdita di sangue, non li vuole passare, poi ha vomitato, tutti qua. Ne sto passare tutti i colori. Oggi me ne sono rimasto a casa, anche perché è arrivato un pacchetto e devo controllare le funzioni. Con questa roba elettronica è sempre un'incognita. Poi domani, guarda, in base al meteo, mare, devo essere calmo domani, calmo, proprio piatto, se non ha cambiato, eh. Sì, per me può essere anche agitato, tanto non ci devo andare. Non posso andarci, oia. E anche l'anno scorso non ci sono andato proprio per niente, manco una volta. Vabbè, io l'anno scorso era per costrizione, per questa operazione, poi devo stare a riposo, poi quando potevo non avevo gana, a settembre non ne ho voglia io. Io devo uscire ma non arrivano a Tesla, c'è troppo caldo, anche lui. Però sono uscito verso le 3:30 a portare il cane, perché a luna lo devo portare qui, non ho ancora l'altro, non ce l'ho fatta, l'ho portato verso le 3:30. Sai che c'era questo venticello e quest'ombra piacevole in un punto e me ne sono stato fermo lì dopo di una mezz'oretta a parlare con questa tipa che c'ha il cane, siamo stati dopo di una mezz'oretta anche lì più forse. E poi che non troppo di fretta è andata per vestito, gli ho visto tutti i mutanti. Ottimo, ottimo, ce l'ha toccato? No, si è subito tappata, ma... Allora, domani, vediamo. Venerdì metto 28, tipo da tutto calmo, dalle 5 di mattina fino alle 20 di sera, calmo, calmo proprio. Poi sempre che ci azzecchino, domani mi sacrifico agli dei, guarda come vada. Se non ci sentiamo è un piacere averti conosciuto già, se non torno. Marco, qua sta mancando la luce, non so cosa. No, negativo. Qua manca l'aria, ma la luce già c'è. E qua si è spenta, c'è questo problema, che ogni volta che mi si spegne la luce, dopo quando la riattaccano, si accende il televisore automaticamente. E anche questo credo. No, è tanto che non ci ho badato. A poi nord-ovest, un po' di vento debole o moderato da nord-ovest. Nord-ovest cos'è? Maestralino. Qua è espresso in nodi la velocità del vento. Perché non ho messo in chilometri orari? Boh. Non siamo inglesi, vabbè, nodi perché è nautica, vabbè. Linguaggio marinare quello. Devo guardare, nodi uguale chilometri orari, per esempio, alle 2. facciamo 7,5, 7 nodi e mezzo, vediamo in chilometro ora di quant'è. Quanto è il break? Ah, miglia all'ora, ma grazie per la... Ma se volessi fare l'equivalenza, perché stavo guardando questo meteo mare, no? E adesso cerco l'equivalente del vento in chilometri orari, perché si parla di velocità del vento, vediamo. Così ho un'idea, mi faccio un'idea. Sì, allora, ecco qua. Il santo Google mi ha detto che... Buonasera, Lupo Grigio, bene, ben sentito, ben entrato. Allora, un nodo è 1,852 km, quindi 1 km e 8, poco più di 1 km e 8. Quindi se domani è 7 nodi e mezzo, nel pomeriggio siamo sui 13,89 km orari. Vabbè, poca roba, dai, poca roba. Una breccia potremmo definirla, dai. Ma non per prima andare domani a vedere quanto questo oceano ci fa sicuro. È vero, perché sì, c'è il miglio marino e il miglio terrestre, io non ho dimestichezza un po' con le... sia con le misure nautiche lì che con le misure anglosassone, mi pare inglesi o americani per la terraferma misurano in miglia lo stesso, terrestri in questo caso. Bene, dimmi già, che non ho capito, aspetta che abbasso il ricevitore, dimmi già cosa mi hai detto, la battuta qual era? Ho detto per primo andare al mare domani a vedere quanto vento c'è, invece di fare tutti questi incontri e la picca più il cervello. In effetti, vabbè, no, c'era questo di meteo.it, aspetta come si chiama, adesso l'ho tolta, vediamo se lo trovo. Il meteo.it, meteo mare Sassari, Sassari generico, e poi magari vai a Sorso, ci sono i cavalloni, vai a Protore se è calma piatta, chi lo sa, tutto è possibile già. Oh, ma l'hai visto su Facebook che cosa è successo a Valghero? Ciao l'amico che è entrato, come si chiama? Freccia, non mi ricordo come si chiama. Ah, è un pomiglio, dai, ciao per sentito. Quello è successo al Ghero, praticamente questa ragazza prendendosi il sole a gambe larghe è sceso un cinghiale ed ha messo il muso in mezzo alle gambe, si è andata lì di sopra al salto che l'ho proprio filmato. E meno male che non l'ha azzannata pure. No, andiamo all'allattamento. Aspetta, già, sei molto... Oh. Certe volte non ti capisco, mi... Ripeti, parla piano. Ho detto, là, odorata in mezzo alle gambe. Perché ha sentito odore di tartufo. Prego. Avete parlato in due, chi è? Prego, buonasera. Avanti, avanti, Massimiliano. Sì, Marco, ciao Marco. Sto provando la radio, cosa sembra la modulazione? Molto amplificata, quasi al limite dello strappamento, ma non ci arriva a strappare. Magari ero troppo vicino al microfono, guarda in questo passaggio. Forte, fortissima, fortissima, è rimbombante anche un po'. Abbassa appena, Massimiliano. E che cosa devo abbassare? Ho già. Ho il macchinello, il microfono, perché è troppo alto, è troppo... Che cos'è, ne metti 60? No, è un MB5. Che cosa ne butto? Il turbo? Ogni radio, troppo per forte, mi Massimiliano, troppo forte. Abbassa appena, Maria, la modulazione di grado quando sei entrato. Perché ho fatto questa... Cioè, mi sono ascoltando un po' in cuffia, già. Secondo me l'ho fatta così in cuffia, vedere un po' se andava bene, mi sembrava buona, che non era così forte. Sì, no, mettiamo il volume anch'io troppo alto, adesso che l'ho passata vai meglio. No, ma già va bene. Cosa gli hai messo? Qualche capuccia particolare? Scusa, già, dimmi. Ho detto, cosa gli hai cambiato? La capsula? Sì, gli ho cambiato la capsula e gli ho messo anche, diciamo, la cuffietta, quella antisoffio, là. Ah, ho capito. Non lo va bene, va bene. Che capsula le ha messo? E questa l'ho tolta da un microfono di un gioco di mia figlia. Quella con lo sfondo verde. c'è anche lupo grigio, non so se tu lo sei. Marco, vabbè, sì, gli ho dato dei controlli, già l'ho sentito. Avanti lupo grigio, vediamo un po' se ti ascolto. Sparito. No, io sto pranzando. No, dai, all'ora di cena. Quindi non posso riprendere. Prendete voi. Mangia, mangia, buona cena, dai. Sì, io fra poco vado. Devo passare anche a fare una commissione. Via. Poi, lasciami la mangia lungami, che sta male. Di nuovo. E allora? Chiamato anche il veterinario, mi ha detto di non preoccuparmi, di dargli l'antibiotico che praticamente c'è questa ciste prostatica. Sta facendo perdere sangue, se. Addirittura. E c'è il sangue dal pisello, ha spinto lui. E poi ha vomitato stamattina, chiamando, guarda, per carità, sta uscendo di testa, ha chiamato subito il veterinario e mi ha detto non si preoccupi, quello lì come ci ha leccato il sangue e ha vomitato, l'ha vomitato ed è rosso per quello. Cazzo, mi pare di investigare qui. Poverino, poverino. Va bene, ascolta, io me ne voglio allontanare un secondino, magari se ci siete riprendo. Va bene, quindi mi confermate che è ultima la radio, va bene? Chiarissima Massimiliano. Direi da DX, il locale è pure troppo forte. Ok, no, va benissimo, grazie. Ci sentiamo dopo al limite se ci siete ancora. Vediamo adesso. Mi sposto e mi faccio qualche altra regolazione, magari come dite voi se è troppo alto, no? La passare un pelino. Ci sentiamo, buona serata e buon di tutto. Ciao. Ma ci vediamo, con che radio la stai usando? E poi ti mando una foto. Sì, ma io già ti ho capito, mi sa. Mi sa che sono perspicace, quella che stava aggiustando. Che stava aggiustando? Sì, che stava aggiustando Claudio. No, no, assolutamente no. Non pensavo fosse quella lì, l'avesse imparata. Andava. Già, si sente bene comunque, ma ci vediamo, una bella radio. Forte, bella, decisa e chiara. Non è una radio che magari distorce o roba del genere, va bene. No, vabbè dai, vado anche io, dai, mi lavo, devo lavare, mi devo decidere, devo passare a fare questa commissione da ieri e ancora non ha giubato. Vabbè dai, ci sentiamo ragazzi, statemi bene, buon caldo a tutti e buona serata. Se c'è anche l'amico Lupo Grigio, salutoni anche a lui. Va bene, ma sì, si è preso Claudio Messini. Ciao già, guarda, ti ho mandato una foto. Va bene, ciao anche a te Marco, ho sentito che stai parlando, ci sentiamo, dai, ciao già. Ciao, ciao, ci vediamo, ciao, ciao Marco e ciao anche tu. Ciao a tutti, ciao ciao. Vai Gianfranco. Scusa, c'è un po' fatta chiamare, c'è picchi negativi sto vedendo, ho sentito stazionarie, vedi un po' se puoi migliorare. Nuddu, tutto rotto. Attenzione il profeta, se l'ascolto, sei sopravvissuto al caldo di oggi. Attenzione Marco, ci sei? Eccomi. Adesso ci siamo. Mi dai un controllo di segnale? Che ho fatto Massa. 9+20 pieno, questo smitter va sempre un po' interpretato, ma mi sembra il segnale tuo, forse qualcosina in più. Prima invece eri 9 con picchi negativi, un attimo prima, ti ricordi quando eri postazionario? Com'è questa storia? Per noi stai andando a mangiare, per Gianfranco no. Buonasera Gianfranco. Sì, buonasera Gianni, ben ascoltato. No, perché poco fa è successo praticamente un PL che fa contatto un po' in maniera strana. Siccome stamattina ha alzato un'antenna di 2 metri, pensavo che fosse d'accordo, invece non è. Siccome poi sì, stasera c'è anche un discreto vento. Se è aumentato mi fa piacere, vuol dire che in effetti è un po' più alta voleva perché c'era la fonte degli altri, però va a vero, comunque insomma, adesso è più alta, ecco. E dai, ma stavolta una battuta, stavo scherzando, dai continuate che devo uscire, devo andare in banca e buia, e così almeno poi me ne cavo il pensiero. Ehi già, mi sono mangiato anche il mezzo piatto di pasta di mamma che non ce la faceva. Infatti, mano, siga. Vai, e qui che te la marco a fianco, vai. Gianni, da te no, c'è nessun cambiamento. Di segnale, prova a vedere. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quasi 9.30, non sei mai arrivato così. Sì, addirittura per 2 metri sopra. Allora va bene, vuol dire che ci vuole arrivare. Quei 2 metri magari hanno sorpassato un ostacolo e ti fa vedere le antenne, si vedono le antenne, capito? Ma basta che mezzo metro, basta che tu superi un ostacolo che magari ti impedisce e va alla grande. Sì, dipende dalla tua zona, io tieni presente che da qua vado tutta a Sassari, a 360 gradi, da Valle Dolce fino a Sassari, a via Milano, tutta quella zona, dove anche Usilo, quando si fermano le macchine sulla panoramica. Ma no, io sono zona via Baldetta, non c'ho problemi a dire, zona via Baldetta. Sì, io sono a periferia di Sassari, lo sai dove, e si vede tutto. Quindi comunque ci volevamo, perché gli alberi sono terribili quando sono a fianco alle antenne, ecco, anche se sono a 10-15 metri, però sono pioppi. Ma no, senti tutta questa gente che sta parlando sopra. Ah, io ho messo lo squelcio per non sentirli. Oh. Sì, cioè discreta propagazione, però chiara, non è una propagazione prepotente. Sì, però insomma ho ripristinato un po' di roba, anche a Zara è tornata a funzionare, adesso la portata è oltre, insomma, sembrerebbe oltre 200 km, forse anche 300. Sembra che ci sia qualcuno in banda laterale sul fondo anche. No, diciamo che c'è un fischio ininterrotto. Ma chi è il genio che ha inventato lo squelch? Chi è? Un tipo che soffriva di mal di testa. Probabile. Oi, oi. Buonasera. Mi Lubrofetta, ti ho chiamato dopo a vedere se eri sopravvissuto anche a questo giorno di calura. No, ho acceso poco fa, poi ho abbassato il volume perché stavo facendo una cosa e ho alzato il volume adesso e ho sentito parlare. Eia. In compagnia di Gianfranco e Gianni ancora non è uscito, mi pare. Gianni Ruperù. È arrivata quella camera oggi, è arrivata con un giorno di anticipo. Sì, va bene, 1080p ce n'è d'avanzo. Bene, magari appena hai la possibilità, magari se riesci a mandarmi qualche foto, giusto per curiosità, insomma, vederla fisicamente un attimino, come si presenta, e niente, dai. Buonasera Gianfranco, ben sentito, avanti. Sì, buonasera, ben ascoltato. Io sto facendo delle prove perché non avevo ancora alzato un po' l'antenna. E adesso sembra che vada tutto. E volevo chiedere a Marco, cos'hai preso, una macchina fotografica normale o una sportcam? Sì, una sport cam, praticamente una GoPro dei poveri. Io ne ho, sono da un po' che li uso, vabbè. Ne ho tre di cui una 4K, che però non la posso usare perché tu figurati se la corre col televisore che è di ultima generazione. Un 4K, se non c'è il cavo proprio corto dall'HDMI non ce la fa gestirlo. Il computer neanche ce l'ha messo perché non lo fa verde, diventa tutto verde, si impalla il computer anche perché non li gestisce proprio, arriva a 1080 solo, quindi full HD al massimo. Oltre 4K proprio non so neanche cosa sono. Però uso anche quella economica, c'è una marca che l'ho comprata per 2 volte perché la prima l'ho perduta, uscivo in bici e l'ho perduta in strada. E questa che uso sempre in bici è lo stesso, economica ma dei filmati da paura veramente. Sì, l'ho presa su Amazon, ora ce ne sono un'infinità, praticamente con tanti nomi, Appeman, Coau, gli altri nomi, aspetta quali sono, c'è quella Xiaomi lo stesso, tutti i nomi, crossover, tutti uguali sono poi. Ogni tanto cambiano la disposizione del tasto frontale per accendere, c'è l'altro nome in basso, c'è l'altro in alto frontale, per il resto stesso software, stessi attacchi, stessi accessori, stesso sensore, stessa lente presumo. Vabbè, questa l'avevo pagato un pochino di più, 63, 64 mi pare, e quella da 40, non da 50, poi quella da 50 l'hanno scontata addirittura a 40, 39,99, tutti danno mare di accessori, tipo piccoli accessori base, no? E la custodia subacquea, due batterie. La comodità che è wifi, praticamente mi sono scaricato sullo smartphone video e foto fatti di test con wifi incorporato, fa abbastanza in fretta anche, oppure tu vedi quello che vede la videocamera e puoi decidere a distanza di scattare una foto, un video, poi ti danno anche il telecomandino suo da polso, quindi se ce l'hai a distanza o per non fare foto mosse, carucci, vabbè, le foto nel conto, insomma c'hai il telecomandino foto e video. Non so se vada tramite wifi. Che segnaloni che stanno arrivando adesso. Non mi ricordo il nome dell'altro collega che c'era per rilanciarle. Rilanciale tu, Marco. Gianni, da questa parte, Gianni. Ascolta una curiosità, ma per caso le tue action cam sono di marca Nilox? Per caso? No, allora io utilizzo una marca principale che è la SGCAM, SICAM, diciamo la più costosa è con corpo metallico in alluminio, è il processore Ambarella che è il migliore che c'è in circolazione. L'altra invece è una sottomarca però di qualità, sempre SICAM, tanto è vero che ci va lo stesso aggiornamento, che è la Acumax, e quella è 1080, la utilizzo, converto in bici come sport cam, proprio perché in effetti è uno sport cam, l'ho utilizzata anche sott'acqua e devo dire ne sono più che soddisfatto, ripeto, è la seconda che ho di quel prezzo, fa credo 25 euro, una cosa del genere adesso, ma ero talmente soddisfatto, le foto, tra l'altro l'ho utilizzato anche su un drone, ed è talmente buona che insomma per 25 euro l'ho subito ricomprata quando l'ho trovata. Poi ne ho un'altra che invece di quelle che dice essere 4K non le ho viste neanche di striscio, che costa più o meno sempre intorno alle 20-22 euro, l'ho pagata, ma quella è un po' più scarsina, c'è anche il wifi che ovviamente però è difficile trovarci l'applicazione. La SICAM invece c'ha tutto, wifi, bluetooth, la telecomandi dal telefonino, insomma è completa, dai. Però portarsela in giro per fare cross eccetera è un peccato, perché se ti cade spammi le pizze. Ehi, no vabbè, siccome mi ricordo tempo fa stavo sbirciando e avevo trovato queste Nilox che praticamente si trovano a livello economico e anche a livello prestazionale si trovano praticamente in una fascia intermedia, dai. Quindi stanno tra quelle super economiche e le GoPro e le semi GoPro, dai. Pensavo che avessi una di quelle. La GoPro è buona indubbiamente, è la prima, però oramai con le cinesi so quando montano col processore di americano la barella eccetera, saranno colpi su colpi, e in più oltre a fare una grossa qualità hanno anche un prezzo che è la metà della GoPro. La GoPro oramai ci mettono qualche cosina in più, qualche cosina in meno e ti danno a campare, capito? Quindi bisogna sempre guardare un po' in giro le recensioni e soprattutto i sensori che hanno, quello lì vuol dire molto. Certo. Vabbè, io come lo stavo dicendo ieri a Marco, a proposito, l'abbiamo lasciato in parcheggio. Ho detto, stavo parlando proprio dell'action cam, infatti a livello proprio di prese, di prestazioni, chiaramente, che sinceramente se non hai tutta un'attrezzatura di contorno del 4K non te ne fai nulla. Se la usi a livello hobbistico, 4K è veramente esagerato. Quindi già un HD per uso così hobbistico ce n'è per i corsi, quindi figurati tu. No vabbè, io ti ripeto, stavo cercando qualcosa simile GoPro, poi vabbè ho visto anche altre cose, ho visto la Sony addirittura che alla GoPro gli fa 10-0 per tutta una serie di motivi, ma stiamo già parlando di cose di alto livello, dai. Io stavo cercando qualcosa di più economico e più abbordabile. Infatti Marco, tu cosa hai preso? Sai, di quella serie delle cinesi, una marca inesistente, cioè sono tutte marche mai sentite, anche questa Apeman, non so se si pronuncia Apeman, la mia è Kowau. Kowau, se non hai sentita, siccome compariva tra le più vendute, comunque pari a questa Apeman 4K, fasulli naturalmente, no? 4K 30 fps, magari non reali, però 1080p vanno già bene. Mi già, se ti dovesse interessare, questa Apeman, ti ho mandato il link ieri, costa 49,99, spesso la danno 39,99, ti danno quindi macchina con wifi, telecomandino, due batterie, custodia subacquea, un pacco di accessori, quelli base, poi vabbè per usi più ampi ci sono anche altri accessori venduti a parte. Queste però non so se abbiano il processore Ambarella, però per il prezzo non lo so mica. Di solito il processore Ambarella ce l'hanno le Xiaomi o Xiaomi, tipo la YI4K, non so come si pronuncia, YI4K, comunque si sono lamentati anche di quella, perché alla fine il 4K, cioè, o è un vero 4K proprio a livello anche 60 fps reali, se no non inutile farne. Sì, io ne ho due 4K, quella che ti dicevo, la CGCam, questa è la 7, puoi anche guardare, adesso non so quanto costi, però di norma, perlomeno quando l'ho presa io, tutta quella classe che c'è l'ambarella andava oltre le 100, perché è un processore molto... reali. Poi non ricordo, c'è anche un altro sensore, quella che c'è in macchina, lo stesso c'è l'ambarella, infatti, e viene oltre quella cifra, tenendo presente che comunque è una dual cam, perché fa le riprese sia anteriori che posteriori, ed è una dash cam, ecco, il termine loro è quello, ed è, e ne sono molto soddisfatto, perché così c'hanno il GPS, fanno il percorso, tutto quanto, l'allarme di corsia, insomma, considerato che non supera le 150, è un oggetto abbastanza sofisticato. Ma io già così non volevo spenderne. Allora, alcune marche, no, cosa ho fatto? Fanculo a me, scusate. Gianni, tu cosa vuoi prendere? No, adesso non ho... L'allarme è rientrato, diciamo, no? Un tempo fa stavo dicendo, mi stavo guardando un po' intorno, ma sicuramente un po' di tempo è passato, quindi sicuro che siamo voluti aggare un sacco di marche, nel frattempo hanno tirato fuori cose nuove, ti parlo di un paio di anni fa, capito? Stavo cercando qualcosa di economico un paio di anni fa, sicuramente in questo lasso di tempo è uscito qualcosa di nuovo e di più interessante, però vabbè, in questo momento poi alla fine dei conti praticamente ho stoppato l'acquisto, dai. Allora, i nomi: Cross Tour, Cam Park, Vimeus, I, che poi sarebbe Xiaomi, Quau l'abbiamo detto, Vimeus, Victor, DB Power, Akaso, Yuntab, qui diciamo un sacco, una sporta, addirittura da 22,99€, questa è una 1080p per esempio, poi DEIE, scritto così, DEIE, poi sono, cambia tutta l'estetica figacciosa, li cambiano, ma poi è la stessa, cioè gli stessi comandi, le stesse prese, piuttosto urge, perché i filmati li ho guardati solo sullo smartphone che arriva a 1080p, però vorrei vederli in grande, quindi urge al più presto il cavo HDMI per collegarlo al televisore, perché almeno in grande ti accorgi più delle magagne. Guarda, la marca, ognuno si mette quella che vuole, e spesso col prodotto è sempre lo stesso, però di norma si fa su prodotti non molto colorati con la cosa, capisci? Ti può andare bene come ti può andare male. Tu pensa che nella CGCAM bisognava sempre stare attenti, perché c'era una... gli stessi cinesi le clonavano, capito? Però siccome quelle erano di una fascia un pochino più alta, anche se costano poco, però hanno componentistica buona, ottima direi, perché io la che avevo ce l'avevo già 3 anni, quindi ha fatto un uso veramente formidabile. E bisogna stare attenti proprio perché puoi andare a caricare l'aggiornamento e ovviamente ti dice va ciao ciao, capito? Mentre invece ho visto che questo l'aggiornamento l'ha preso regolarmente, quindi vuol dire che è originale. Poi ci sono delle cose da guardare, tipo la matricola, il seriale, quelle cose lì, che è la versione dal software che in certe che si spacciano per il trasporto piano, poi non c'è neanche, ecco, sono un po' delle ciofette. È tutto lì, quindi la devi trovare e vedere un po' come va. Ti consiglio soprattutto, io ad esempio non faccio più foto, ma la utilizzo nel filmato, c'è una funzione anche su VLC ad esempio, cattura immagine, ti fa la ferma immagine, la fotografia e vedi un po' come esce. Da me esce formidabile, anche ingrandendo l'apparecchio rimane nitida, benché sia una 1080 quella che uso normalmente, ecco, più economica. Sì. Poi ho provato la custodia subacquea da vuoto, ovviamente ho preso un secchio, ho attaccato un peso che tenesse a fondo la... l'ho lasciato tutta la sera, dal pomeriggio, vedo che non è entrato niente di niente, intanto capirai, le riprese io le farò a pelo d'acqua, l'attaccherò alla maschera, poi vabbè, se capita qualche emersione si vedrà quello. Si vedrà, domani la collaudo, certo avrei preferito andare al Ghero, ma tanto per vedere se si accende in acqua, se fa condensa, sai, tante cose. E poi per le foto io stavo pensando, ma non sono foto vere in realtà quelle che fa, per caso sono, è come se prendessi un fotogramma dal video. Gianni, già forse hai ferrato. Ho capito, no, ma penso di no, Marco, penso di no, penso che siano due procedure completamente diverse. Marco, fai usi VLC per la ripresa, poi fai cattura immagine. Ah, boh. insomma, poi c'è questa Apex Cam, un altro nome, Apex Cam, che sembra molto wow questa. Addirittura c'è la feritoia del microfono anteriore fatta tutta sfaccettata a triangolini. Poi stesso telecomando, stessa custodia, sì, praticamente lì, cioè il clone del clone del clone del clone. E comunque ho notato che quella Xiaomi, no, quella 4K che dovrebbe essere reale, che ha il processore o sensore Ambarella, l'ottica Sony, molti sono lamentati comunque del 4K, che non è un 4K a livelli professionali, e lì bisogna andare dalla GoPro in su. Ma poi l'anima del 4K, io ho televisori ancora, il mio è un HD Reel, quello di mamma è un Full HD, quindi da lì non se ne esce. No, il mio è un 4K nativo, di quelli proprio fini fini, inocchiati, però secondo me non lo gestisce, cioè non lo gestisce nel senso del cavo, perché c'è sempre il problema del cavo. A parità di cavo, se uno lo vede e se uno non lo vedi. Infatti mi ha fatto arrivare dalla Cina, perché qua non so mai a cosa sono, anche l'ingresso USB, perché è quasi tutte quelle sport cam, no? Dove c'è la presa di ricarica, c'è anche l'uscita video. Infatti se tu guardi, almeno ci dovrebbe essere TV on off, eccetera eccetera. E oltre a collegarci l'HDMI, ci puoi collegare anche l'USB. Forse serve per collegarle al trasmettitore del drone, se utilizzata in quel campo, però c'è un cavetto particolare USB che si collega e ti dà l'uscita RCA. Però non credo che siano molte le... Vabbè, quelle professionali forse sì, come la storia dei... alcuni top di gamma hanno le... USB tipo C, no? Hanno anche l'uscita video per collegare alla TV. Come si chiama? Lo standard MHL, quello per trasmettere il video dalla USB, non mi ricordo. Mi sono mancata anche la voce. No, non so, standard RCA sulle mie, su tutte quante, quando imposti la funzione TV. Se invece utilizzi l'HDMI, allora è tutto un altro paio di maniche, ovviamente ti esce come mamma l'ha fatto, capito? Quindi sei in 4K, te lo dai in 4K. Però con l'HDMI il problema è sempre lo stesso, è il cavo. Se non trovi il cavo, quello costoso, proprio quello schermatissimo, con tutti quei trick e track che deve avere, 4K non te lo fa passare. Questo l'ho notato, perché nonostante quei cavi che ti danno, ti spediscono insieme ai videoregistratori, quegli affari lì, li metti o neanche a palla vanno, sono anche corti, ma non c'è verso, non li gestisce. Ci metti invece uno dei cavi che praticamente sono rigidi, li devi piegare, sono telati addirittura, e allora l'immagine appare come. Però ripeto, è una cosa molto schizzinosa il 4K, perché sono parecchi bit che passano in pochi secondi e millisecondi anzi, e quindi ci metto niente a saturare anche il cavo di connessione. Ehia, adesso per questo giocattolino credo che basti un volgare cavo HDMI. Anzi, ne avevo già uno, no? di un tablet, no? Adesso, beh, caspita, il cavo ce l'ho già, è un da mini HDMI ad HDMI classico, no? Lo spino per connettore. Invece no, la Action Cam, l'attacco, l'uscita micro HDMI, non mini, quindi ci vuole il cavo, mannaggia. Non vorrei sbagliare, perché ho letto cavi HDMI con 3D, con ritorno dell'audio, cos'era che ho letto, queste menate, che lì non servono sicuramente, bastano. Forse anche quei cavi Amazon Prime, quelli economici. Vai dal cinese, dipende quello costoso, guarda che c'è quello talato, dovrebbe andare bene, di qualità, costa un po' caro, stiamo parlando di 7 euro, però... non so se sia un metro e mezzo, due metri. Per caso, più corto è meglio è? Penso proprio di sì, più corto e più fermato è anche. Non ti basta l'essere corto, ci vuole anche la qualità. Quindi se vuoi avere le 4K, mentre per la per il coso lì, per il 1080 non ci sono problemi, è una cavolata quella. Comunque cavo va bene. Quando passa passa, capito? Tutto lì. Comunque i prezzi, meno male, una volta c'erano le GoPro, come dire, in principio era la GoPro, e poi sono arrivati i cinesi che poi li fanno le stesse custodie, gli stessi, sai vedere, cioè, le clonano a tutti gli effetti, anche la chiusura della custodia stagna sembra identica a quella della GoPro, dipende poi dai modelli, se ci sono vari modelli, certe hanno un tastino da spostare e poi la puoi aprire, certe invece apri così, tiri su e si apre. Secondo loro, secondo i cinesi, questa custodietta sub dovrebbe tenere fino a 40 metri. Sì. Ma chi è il pazzo che va a 40 metri con quella, fino a 40 metri con quella? Ui. Quella ne farà 4 di metri. Poi chi lo sa, tutto è possibile. Tanto è sempre policarbonato, le guarnizioni sembrano buone, finché sono buone. Guarda, non credo che a 40 metri ci arrivino neanche le mie radio, perché tutte le mie radio sono anche collaudate, diciamo, per andare sott'acqua. Nel caso, quel pochino di fanno un bar, insomma, frattori o qualcosa del genere, o incursori. Anche quelli veicolari, infatti i microfoni hanno tutti la guarnizione, sono tutti curati, però 40 metri sono 40 metri, c'è una pressione non indifferente. No, ma infatti non è credibile. Prima era 30, dice upgrade, fino a 40 metri, upgrade, sì. Vabbè. Io posso immergermi fino a 40 centimetri, quello sì, allora sì. Io purtroppo non ci riesco adesso, non ci riesco più a pensare, sono andato ieri, ci sono stato al mare esattamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sono tornato indietro. Ho messo il telo e l'ho risolto, c'è troppo caldo, non si può stare. Avanti Gianni. Vabbè, la tecnologia, c'è gente in banda laterale, sicuramente sento borbottare, e anche gente sotto che magari ognuno di noi si trascina a prezzo. Vabbè, già non ci stanno disturbando, dai. Preparazione, quando c'è si fa sentire. Certo, certo. Dai, Marco, facci sapere i risultati dei tuoi test col secchio. Dimmi, test del secchio, sì, l'avevo controllata poi. L'ho asciugata prima bene fuori, guardavo dentro ma non c'era niente, però poi aperta era completamente asciutta. È già buono, dai. Poi la Scuba Pro, che è una ditta intelligente, ha fatto un attacco per GoPro per tutte le maschere, almeno per la maggior parte delle maschere, no? L'aggeggino che fissi con una fascetta, praticamente al telaietto tra gli occhi, no? La parte che risulta in fronte del telaietto, lì tra la guarnizione, tra il telaio e la nel silicone si passa una fascetta, no? Ma poi lo puoi fissare là e all'attacco GoPro è cinesi, no? Che poi è sempre quello. Così tu metti la camera sulla maschera che vuoi tu, no? Poi c'è la Cressy, vende direttamente una maschera chiamata Cressy Action Mask, no? Che ha l'attacco fisso sulla maschera, però la maschera costa 35 euro. Se vuoi anche il boccaglio figaccioso, fatto dallo stesso materiale, tutto speciale, non so, 50 euro. Quell'attacco costa, vabbè, 9 euro più 3 euro di spedizione, con 12 euro te la cavi. Ma infatti, oppure te lo costruisci, tanto sono tanti attacchi. non fai con quei collanti che stanno andando adesso, e va tranquillo. Io l'ho provata sott'acqua, quella che ti dicevo, quella economica, e devo dire che va benissimo. C'era un fondale spettacolare, ha passato anche tutti i pesciolini che c'erano in giro, fino al fondo, in maniera estremamente chiara, mi ha anche sorpreso, perché il vetro si pensa sempre che porti magari a qualche imperfezione, invece sono rimasto veramente a bocca aperta, ho detto, caspita, per 25 euro di sport cam va con una meraviglia anche sott'acqua, quindi provo a sapere tutti. Eia, le Midland, cioè Midland le fa tuttora, però come ha detto Gianni ieri, mentre la Midland le faceva lunghe, sviluppate in lunghezza, adesso vista la tendenza comune ne ha fatto una di color giallo fluo, va bene, guardabile, poi quelli sono gusti, che ha la forma della GoPro, cioè piazza, come tutte le altre, GoPro e cinesi, giallo fluo, credo che sia l'ultimo modello. Non mi fiderei molto però di queste super piazze, perché c'è sempre un problema da tenere presente, che quando stanno riprendendo sviluppano calore, e quello, se non sono fatte bene, le fa morire dopo un po', quindi sempre è meglio avere anche un po' di spazio per la distrazione, quelle fai piccole costano a toccare e fa puff e muore. Avanti già. Ehi, sì, vabbè, poi ci sono altre scuole di pensiero, come stava dicendo Marco, ci sono quelle sviluppate in larghezza, tipo la GoPro, e quelle come la Sony sviluppate in lunghezza. Dipende poi chiaramente da, insomma, sono due scuole di pensiero diverse. Io ho visto, ti ripeto, tempo fa ho visto un confronto tra la Sony e il top della GoPro, e la Sony cioè, praticamente era superiore sotto tutti i punti di vista. È sempre una questione di sensori, sempre lì è il punto, sensori, e poi viene la dissipazione del calore, è molto importante per i componenti, per la qualità. In fin dei conti, cioè la mia ad esempio rimane in funzione fino a che scarica la batteria, quindi siamo nell'ordine di un'ora e mezza, perché anche la batteria, anche se c'è i ricambi, però non c'ha una grande durata. E l'altra, la SG Cam, dura un po' di più, ma invece non la porto perché costa troppo perderla. E volevo comprare una, ma stavo uscendo, sì, ho bloccato il pulsante. Sto uscendo. Sì, era caduta la portante prima. Ah, sì. Perché ho sentito il ritorno, ma no. È strano. Ah, forse perché c'è anche della ventola, forse magari sta scaldando, perché c'è un caldo qua, non si può stare. Sono scaldato anche gli apparecchi, porca miseria, spero che passi. E sto dicendo, no, io stavo tenendo d'occhio un altro tipo di cam, che si chiamano body cam, sono quelle in dotazione, diciamo che usa molto in America la polizia, però servono anche come dash cam, però poi pensandoci bene, quando sei in bici, sicuramente anche se rimarca, anche se è funzionale eccetera, non riprenderebbe bene, perché sul manubrio rimane stabile, mentre questa cosa nel petto, anche se ti dura 2-3 ore la ripresa, anche di più, però ovviamente il petto essendo inclinato, cosa riprende? Il manubrio. Quindi ci ho ripensato, ho detto, ma forse non va tanto bene. Di stabilizzatori tipo gimbal, però a prezzi più popolari, vabbè, gimbal non presulta, ma ce ne saranno, vabbè, non è il mio caso, perché tanto io l'ho presa per il mare, alla fine, ma bici non ne uso più, moto non ne uso più. Sì, io la metto in macchina come dash cam, ma ce l'ho già una di cacca, proprio giocattolo, però funziona ancora. Ma il stabilizzatore serve solo se devi mettere su un drone, ecco. No, perché ho visto che qualcuno fa le riprese a mano, no? Quando si autoriprende, recensioni, roba del genere, hanno un gimbal montato sull'impugnatura o qualcosa del genere, così ho sentito. No, più che altro perché hanno degli attacchi particolari, non so se li hai visti, quelli che fanno la recensione su YouTube, che sono magnetici, visto che stai facendo la recensione su una macchina, che ne so, la mettono sulla portiera, all'interno, o con quelle cose particolari, che sono un po' più serie di quelle che vengono. Sto vedendo le bodycam, ce n'è un sacco, una sporta. Sono piatte e alte, no? Caspita, sto vedendo una Bodycam Prestige Tactical americana, prezzo in dollari, sicuramente prodotto americano, $450, magari è cineseria, mi. Dipende dalle caratteristiche. Certo trasmettono anche, hanno anche il PTT dalla radio, incorporato. Mi pare, sì, vedo qua un tastino laterale, ho cambiato immagine però. Marche, i più nomi, i nomi più fantasiosi, Andatec Professional. Ah, questo è australiano il sito però. Ce n'è una Brown. E poi sicuramente ci sono le cinesate anche lì, a voglia. Sono quasi tutte fatte in Cina oramai, anche perché la manodopera costa poco, mica per altro. Anche di case americane, che c'è mica Trump. Infatti se tu guardi la Midland, no? Quella piazza ormai tipo GoPro, Midland H7, no? C'è sia giallo fluo che nera. Se tu vedi anche la custodia subacquea, l'esposizione è identica a quelle cinesi, quindi sicuramente quello è lo stesso di quelle cinesate come quella che ho preso io, sì, con la scritta Midland, con i colori Midland, insomma, però è la stessa roba, però la Midland te la fa pagare €150, no? Ed è sempre 4K a 25 fps, mi pare, c'è un 4K fasullo, mi. Giustamente poi le persone spendono meno possibile, cioè o prendi professionale o prendi in giocattolo, spendi in proporzione. Non è una questione di quanto spendi, perché se tu mi dai lo stesso sensore, lo stesso prodotto praticamente, a un prezzo inferiore, io prendo quello che ha un prezzo inferiore, però ripeto, devi sapere cosa c'è dentro. La Midland dubito che faccia prodotti di qualità, anche le stesse radio, fa anche io anche una radio nautica tra l'altro. Sì, sono valide per il consumo eccetera, però ovviamente quelle fatte in altro modo sono un'altra cosa, ecco. Sono più pratiche, sono più robuste, eccetera, eccetera. Quindi no, Midland la escluderei a priori, guarda. Sì, perché la Midland poi non produce niente, cioè rimarca, mette la marca su roba cinese, boh, come la Intec, credo. Oramai fanno tutti così, chi non è proprio, che non produce, tipo la Sony o le altre marche, è ovvio che se le fa pagare, però ci mette anche della qualità. E poi ci sono quelle economiche che si utilizzano di te, però ripeto, devi dire di affidare a chi l'ha già comprata, sentire un'opinione e mettere a prezzo, ecco. Purtroppo devi anche stare attento alle recensioni, soprattutto di Amazon, perché c'è gente che non capisce neanche cosa sta scrivendo. Io ad esempio ho comprato delle frese, le frese lo sai, no, sono quelle che si mettono nel trapano per allargare il busto. rimanga un po' aperta, no? Ne avevo detto peste, non compratele che schifo, per carità, ieri ho usato addirittura senza usare la punta, proprio direttamente sono rimasta un po' aperta, cioè mi ha attrappato a parte in pochi secondi una latra che era di quasi 4 mm, cioè una cosa da paura. E meno male non servivano a niente, a parte 4 soldi, hanno detto no, cineserie che non servono a niente. Me ne è capitato uno, poi se tu guardi la recensione di Amazon, perché sono proprio gente che cioè veramente era la fase 4 disastro, che scrive recensione eccetera eccetera, mi dispiace non ti posso aiutare perché non l'ho comprata, cioè è una più imbecille dovuto. Adesso anche per questa che ho io, uno l'ha, insomma, spiegato la magagna, no? La ditta che la spedisce Amazon, no, ma il venditore è un altro, no? Praticamente ti dà un tagliandino dove spiega che se tu gli lasci una recensione 5 stelle lui ti fa un regalino, allora tutti gli idioti hanno messo 5 stelle, no? Io invece la voglio valutare per quello che vale. Poi se mi soddisfa il 1080p, può darsi pure che le lasci, se queste capirai. Io ho certi catarri di per quelle cose lì. Erano meno che giocattoli, meno che giocattoli. Aspetta, messaggi stanno arrivando qua. E parli del diavolo, mi. No, AliExpress non c'entra, è un'altra cosa. No, credevo fosse il venditore che mi stava già assillando. 5 stelle, 5 stelle. Per il voto positivo. Oh, poi ci sono anche recensioni poco obiettive, tipo, c'era chiaramente indicato che la micro SD non c'era, dice potevi usarla fino a 64 giga, no? Uno ha detto male, molto male, l'ho restituita perché non c'era la micro SD in dotazione. A parte che se dovesse essere un 4K vero devi pigliare quelle SanDisk tipo S3, no, U3, V30, sai quelle siglette che mettono sulla micro SD, una micro SD da 64 giga ti costa quanto la telecamera, mi pare sui 35 euro, SanDisk sempre di marca, no, A1, U3, V30. Mi pare si chiamino SanDisk Extreme, una cosa, quelle che sono rosse e oro di colore, non sono nemmeno le più spinte, perché ci sono poi le Extreme Pro, quelle nere. Anche lì c'è tutto un discorso da fare, di norma l'importante è la classe già per i 1080 deve essere una classe 10, tu figurati che nel mio filmato della Omax di 10 minuti e 1,5 giga, quindi figurati quanta velocità occorre per fare un filmatino di 10 minuti, ti servono 1,5 giga, per farne un'ora andiamo già a livelli alti. Sì, ma praticamente una donna era questa, pretendeva che pagando, adesso non mi ricordo se era la mia, ma forse era la Apeman, pagando 40 euro le dessero anche la SD da, presumo, 64, che costa quanto la Action Cam stessa. Bisogna avere faccia tosta proprio. Certo, i cinesi potevano darti una SanDisk fasulla, ma poi è fasulla, capito? Poi c'ho questi altri scritte standard UHS1, adesso non mi ricordo, comunque sì. Per il 4K erano quelli lì. Poi vabbè, 8K già siamo su cose folli, no? Mi pare non so nemmeno se ci siano Action Cam da 8K. Gianni, niente ne sai. Negativo. No, ma non penso Marco. Su quello standard lì, Action Cam è proprio nel senso, per quello che ne sono mi risulta, ma voglio dire, già il 4K non è per tutti, figuriamoci l'8K. Ma infatti. Bene, poi altre cose tipo slow motion, time lapse, e poi questo burst, mi pare che spara raffica di foto, cioè minchiate che non userò mai. Io devo solo accendere e premere REC e boom, e basta, non devo fare altro. Se ci metti il regolamento del movimento, non devi fare anche quello, devi solo accendere e basta. Beh, su quella però non c'è, no, su quella non lo so se c'è, no, non credo di averlo letto quello. Vabbè, c'è un limite. Chi lo sa, è possibile. Vabbè, comunque, ce n'è d'avanzo. Per filmare i culi delle MILF a pelo d'acqua va più che bene. Guarda che ce l'hanno quasi tutte, perché è una schettinata, no? Devi guardare nel menu e mettere on, ci passi la mano davanti e ti accorgi subito che quando rileva il movimento, poi c'è lui, guarda anche se c'è nel menu in italiano, capito? Molto ce l'hanno in italiano. Sì, in italiano. No, ma quello non ce l'ha, no. Aspetta il controllo. Non c'è il suo menu, non c'è motion detection. C'ha la modalità macchina, cioè la metti a testa in giù, c'ha la modalità loop, per cui quando riempie la scheda di memoria inizia a cancellare i file più vecchi. Non so se li faccio a spezzoni, sì, a spezzoni di 8 minuti che vuoi tu, no, credo, però quello lì motion detection no. Sì, c'è 1, 10, cioè, no, c'è 5, 10, 15, continua dovrebbe essere una cosa del genere, che ti dà lo step, che conviene infatti farlo a pezzi così eviti di dover avere un filmato, diciamo, tutto attaccato, ecco. Perché magari, per esempio, chi fa in bici, le conosce i pizzi, non le servono, che insomma, quando sei sull'asfalto, quello se li puoi cancellare, ecco. Marco, ascolta, ma sono entrato a gamba tesa, la focale com'è, buona? Sì, grandangolare. Certo, se inquadri roba vicina si vede la curvatura. Caspita, perché certo hanno 140 gradi, quella 170, anche se non penso che ci arrivi comunque. 170 gradi, cioè non sembra un fisheye, capito? Quello proprio che vedi tondo, che vedi proprio di lato. Ho capito, vabbè, da una telecamera del genere, chiaramente l'ottica per l'uso che se ne fa deve essere aperta, e quindi aprendola chiaramente ti modifica la prospettiva. Vabbè, i signori della NASA già sono esperti in fatto di curvature, dai. Ma per far vedere la terra piatta come sferica? Cazzo, ormai non so come aggrapparsi, cazzo, si stanno inventando tante di quelle cazzate, cioè ormai il re è nudo e questa gente si continua a applicarsi sugli specchi. Comunque, al di là di tutto, poi comunque un sacco di affermazioni e di cose sono state messe in discussione, ed alcune sono state anche sbuffate alla grande, cioè proprio sono state proprio completamente resettate e sputtanate, dai. E poi dipende anche da chi lo dice, insomma. Comunque confermo, il motion detection non c'è, no, queste non sono fatte. Proviamo con la Ipaman, vediamo se cambia. Avanti Gianfra. Sì, ma mi sembra strano che non ci sia, comunque è possibile. Ok, io vi devo salutare, ma lo conto che fosse sia così le 8:40 quasi. Qua c'è troppo caldo, gli apparati stanno bollendo, cioè una temperatura folle, sto facendo anche il condizionamento, sono qua. Poi io vi sono dolori, spero che domani cali un pochino, ci sono un po' di fresco, che è veramente triste, ma avrò bevuto già 4 litri d'acqua, sembra un cammello, Va bene, buona serata a tutti, buona cena per chi non l'ha fatta ancora. Alle prossime, ciao Marco, ciao Gianni, e alle prossime, passiamo al caldo, acqua e ciao Gianfra, dai, alle prossime, quando capiterà, dai. Buona serata e buona carica, dai. Adesso non so se anche Marco rientra, boh, avanti Marco. Sì, sono qua ancora, ciao Gianfra, ci sentiamo. No, comunque non c'è, bisogna salire di prezzo per avere anche la funzione. La comunità può mettere il microfono esterno quando è senza custodia. C'è un jack mono in questo caso, ti danno anche il microfonino, con l'attacco da bavero. Sente molto molto meglio di quello interno, no? Che è più basso. Bene, dai, sentiamo, sì, c'è caldo, oggi lo sto soffrendo più degli altri giorni. Mi volevo anche mettere il tappo alla vasca, riempirla a metà e buttarmi dentro. E rimanermene dentro. Ammollo come le fave, dai. Eia. Eia, eia. Aspetta, un altro messaggio, aspetta. Un attimo che sto messaggiando qua. Fai, fai. Porca miseria, guarda. Comunque anche il caro Italia Militare, che ha tante cose militari, così. Oggetti di... Dopo ho preso lo zaino e gli scarponcini con la Jeep, no? Prima ti chiede di fare la recensione, no? Poi però se la recensione non le aggrada, allora non te la pubblicano. Deve avere la loro approvazione, no? E io giustamente di quello zaino ho scritto, sapevo già com'era lo zaino, no? Ma per brevi tragitti, cioè la cinghia lombare, no? La fascia lombare in realtà è una cinghia ed è minimale, no? Ma quello se fai brevi tragitti, come l'ho preso io per il mare, te ne freghi. Se vai a fare il cammino di Santiago ti prendi quegli zaini che hanno bello le fasce imbottite ai lati, che ti proprio sorreggono, sostengono proprio lo zaino, no? Insomma, ho scritto fascia minimale e poi ho detto mancava la cinghia pettorale che ho provveduto ad aggiungere io. Probabilmente non hanno gradito e non hanno pubblicato la recensione, capito? Bello, bella mentalità. Il marketing, nel marketing funziona così, già lo sai. Ormai è uno standard. Anche su eBay quando cerchi di lasciare un feedback non proprio positivo ci sono insomma, mille domande, opzioni, sei sicuro, sei veramente sicuro, hai provato a contattare il venditore, hai provato questo, hai provato quello. Eia, no, lì niente di tutto questo, se non piace a loro non la pubblicano, ma io anzi gli ho dato 5 stelle mie, cioè 5 stelle ho scritto, l'ho descritto, l'ho dato solo cinghia lombare minimale, poi ho specificato, io l'avevo preso d'altronde per andare al mare prevalentemente, e vabbè. Comunque mancava in effetti la cinghiettina che unisce i due spallacci sul petto, no? Per tenere più stabile lo zaino. Quello l'ho preso dalla Cina, pochi centesimi, e gliel'ho applicato color tan, che va bene con lo zaino, che è multicam, non so se l'avevi visto lo zaino in foto, se te l'avevo mandato. No, negativo. Siccome lo zaino trentennale che avevo ed è di quelli tipo alpino, no? Cioè dritto, no? C'è un tascone centrale, no? Carichi roba dall'alto, due tasche laterali tipo per la borraccia, e poi la base c'era un taschino per, sai, documenti, cose del genere, amenità. Quello è molto simile come forma, cioè la forma è dell'alpino, ma io ero abituato a quella forma. E quello che avevo io è durato quasi 30 anni, 25, poi si è distrutto, proprio l'ho disintegrato in decenni di andate al mare. Bene, speriamo che duri altrettanto questo. Comunque mi piaceva il colore mimetico e l'ho preso così, invece il solito zaino banale, monocromatico. Bene Meda, bene Meda. Beh, mi sa che io, Marco, io sgancio, dai. Ci si aggiorna, dai. Buoni test con le connection cam e dai, ci sentiamo nel prossimo, ok? E io, non vuoi mangiare già? Mi pare l'ora giusta. Io ho pranzato alle 7:30, quindi non fa testo, ok? Dai, ci sentiamo. Buona serata, buon tutto, dai. Ciao. Ehi, buona serata anche a te e buon proseguo. Ciao.